mi fate parlare. E che vuoi dire sul Colorado? Sono aumentati. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Ma chi l'ha detto? Ma scusami un attimo, perché? No, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao, Cruciani. Metti il capo al water, lui. Metti il capo al water un attimo. Sei mesi che vi ascolto e parlate solo di ricchioni, puttane, preti pedofili, negri e leghisti. Andate a fanculo. Froci, froci, froci. O tu, testa no, di cazzo, sai di come Giglione ti ha dato le armi ai Assad. Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stiamo testa di cazzo internazionale. Stiamo parlando stronzo che non sei altro. Ma che dici? Ma stai una volta facevi il giornalista, anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad. Allora pagato io ti denuncio Assad. Io ti denuncio. Ridirlo ancora una volta. Mi hai dato della testa di cazzo. No, ridirlo ancora una volta. Come ti permetti? Pagato da Assad. Pagato da Assad. Tito! Ragazzi miei, io pensavo di aver visto tutto nella mia vita. Davvero pensavo di aver visto parecchie cose. Sì. Parecchie cose, tantissime cose. Se potessi parlare. Sì, d'accordo, certo. Anche tu, sì, certo. Anche tu, nel senso, hai visto tante cose che ho fatto, no? Se potessi parlare. Prima o poi parlerai. Se potessi Racconto io la vita nascosta di Cruciani. Amico mio, se potessi parlare. Amico mio, se potessi parlare quando si spegneranno. Quando si spegneranno non i riflettori, ma le frequenze di questa radio. Ma perché, se potessi parlare. Andiamo avanti, dai, comunque, perché sennò dici che ti interrompo. Pensavo di aver salutiamo visto il tutto. Direttore Guido Gentile, intanto. Ma perché, che c'entra? Salutiamolo, ma non si sa mai. Mai la zanzara. Salutiamolo, non gliene frega un cazzo, salutalo, dai. Non si sa mai, salutalo. Ma perché? Non si sa mai. Vabbè, comunque, ragazzi, la cosa è molto semplice. Io pensavo di aver visto tutto nella vita. Non ero preparato a quest'altra cosa del Berlusca. Devo dire, non ero preparato. Certo, bravo. Per me c'è un solo motivo per il quale Berlusconi si è fatto fotografare, riprendere in questa scena penosa, diciamo la verità. Io la definisco così. Beh, meglio questo del Bungabunga. Meglio il Bungabunga, stai scherzando. No, più autorevole la capra, l'agnello. No, ma stai scherzando. Gli dà una standing maggiore, secondo me, l'agnello. Ma sei impazzito, ma molto meglio il Bungabunga. Tu dici? Ma 100.000 volte, a parte che non è... Magari vanno bene anche tutte e due. Non è dimostrato. Vanno bene tutte e due. No, è dimostratissimo Bungabunga. Il problema è un altro. Meglio il Bungabunga. 100.000 volte meglio il Bungabunga che farsi riprendere con questo agnello, col biberon. Con il biberon, insieme alla signora Brambilla, la Pascale. Una scena penosa. Penosa. C'è un'appropriazione indebita. O l'agnello per te? Cos'è il problema? La Brambilla o l'agnello? No, lo so, è uguale, è la stessa cosa. È la stessa persona. Non distingo tra un agnello e la Brambilla, è uguale. D'altra parte, secondo lei, gli animali sono uguali agli uomini, per cui non sto dicendo una bestemmia, no? Io dico una cosa molto semplice, ragazzi. Quella scena che avete visto è un'appropriazione indebita di animale. Un sequestro di animale, come direbbe Parenzo. Hanno sequestrato a scopi politici quegli agnelli. Un sequestro di persona hanno fatto. Dai, ragazzi, ma è inguardabile quella roba lì. È una roba inguardabile, dai. Per quattro voti Ma poi scusa, Berlusconi, giustamente mi fa notare qualcuno, anzi lo dice una deputata del PD, non si era fatto fare da McDonald's 15 giorni fa, sì, dai signori di McDonald's. Questa è una buona osservazione. Io voglio dire, pare che anche abbia bevuto, questa è una buona osservazione, pare che abbia bevuto solamente, chiudila perché non puoi fare, è bello, bell'inizio, bella musica, bella entrata anche con questa sigletta che ha fatto quell'imbecille di regista nostro, la corte, signor la corte, che mi chiama anche il sabato e la domenica, mi fai un audio per cortesia anche il sabato e la domenica, mi rompe i coglioni, signor. Salutiamo il direttore Gentile del gruppo Soli 24, dai. Auguriamo grande fortuna al giornale, perché mi pare che insomma, no? Cioè, insomma, allora, Berlusconi era andato da McDonald's una quindicina di giorni fa, pare che abbia bevuto semplicemente una spremuta, ma è sempre andato nel tempio della carne, no? Nel tempio assoluto della carne. E poi ti fai fotografare con gli agnelli in mano, a Berlusconi, dai. Brambilla, sentiamo la Brambilla, poi vi faccio ascoltare una cosa divertente su questo, perché poi lì è, naturalmente... Berlusconi si fa fotografare con l'agnellino. E secondo te cosa hanno fatto a studio aperto? Comunque prima sentiamo la Brambilla, dai. Salvare la vita agli agnelli e ai capretti, in particolare in questi giorni di Pasqua, è quello che chiediamo agli italiani ed è quello che ha voluto fare anche il presidente Berlusconi, adottando questi tre piccolini che diversamente avrebbero fatto davvero una brutta fine. Ma come siamo commossi! L'Italia intera è commossa! L'Italia intera si è commossa per questi biberon, per questi agnellini! Dai, su! Ma che roba è? Dai! No, ma io non mi... Chi era questo qua? Meno male che Silvio Bè. Chi era questo? Questa è la Forza Italia. Meno male che Silvio Bè. Cos'è questo Bè qua? Tra l'altro ha tradito Berlusconi, adesso parlando più seriamente, una marea di suoi elettori che appartengono alle categorie della produzione delle carne, ai cacciatori, tutti berlusconiani, a me non me ne frega nulla, mai stato berlusconiano in vita mia. Comunque, berlusconiani convinti, ho votato Berlusconi, ma non significa essere berlusconiani. Basta che cazzo stare, va se potessi parlare ma anche qui. Ma che dici? Delle follie. Ma quando hai iscritto il programma elettorale Forza Italia? Ma che cazzo dici? Pazzito. È una menzogna, però intanto l'ho detto. Ti dimostra il contrario? Intanto io l'ho detto perché funziona così in sto paese. Tu devi ogni tanto devi. Ma vabbè, intanto ormai l'ho detto, il giornale è andato in stampa. Una marea di persone mi hanno scritto dicendo: Berlusconi ha tradito tutto quello in cui noi crediamo: cacciatori, circensi. Ma è una roba incredibile. No, guai a toccare il tutto circo, questo ragazzi, perché magari gli ha guai a toccare tutto il circo. Questo perché magari la Brambilla gli ha sfracassati i coglioni per tre mesi per farsi fare queste fotografie. Gli avrà sfracassato, dice presidente, ci faccia fare questa cosa per Pasqua. Quello a un certo punto non ce la fa. Io voglio credere a questo, cioè voglio credere che Berlusconi sia vittima dello stalkeraggio della Brambilla. E comunque ragazzi, studio aperto, perché questo qua è tutto da sentire. Vi prego attentamente perché va bene tutto, però non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Ah, tu perché... dici che c'è un po' di piaggeria. Senti, ma non ti prego, piaggeria. No. Piaggeria. No, non credo. Ti prego, credo. Senti. Sentiamo. Ti prego, senti. I amici ti di prego, aperto, sentiamo. In vista della Pasqua si rinnova l'impegno animalista del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. La politica, l'impresa, le vittorie, certo, e poi le immagini che raccontano da sole del cuore e dell'anima di una persona. Eccolo Silvio Berlusconi, ripreso nella sua umanità più vera, in un pomeriggio di sole, accanto a cinque agnellini salvati da morte sicura per le prossime festività pasquali. Più delle parole parlano i gesti. È bastato poco perché il segnale forte lanciato da Michela Vittoria Brambilla in difesa degli animali e della natura venisse raccolto e amplificato da Berlusconi e dalla sua compagna Francesca Pascale, che dell'amore per questi nostri fratelli minori ha fatto una ragione di vita. Abbiamo trasmesso il telegiornale dell'Istituto Luna. Ah, ragazzi, manco in Corea del Nord un fanno queste cose. Tantinello sbilanciato. Più delle i parole. Nostri fratelli. Più a delle chi? Parole parlano i gesti. Certo, io mi sono appuntato tutto. Vabbè, certo, sì, le vittorie. Pure studio aperto. Ma che me ne frega a me? Ma sì, chi se no, ne frega? Ma che me ne frega? Nel senso che non mi dico nulla contro questo. Sto analizzando. Attento, ragazzi. Attento, c'è gente bloccata in taxi che sta ascoltando la nostra trasmissione. Allora, mi stanno scrivendo. Le vittorie, certo, la politica. Però qui il cuore e l'anima di una persona, ma dai, raga, ma non c'è bisogno di fare, non ve lo chiede nessuno di fare queste cose. No, dai, serve. Su. Vabbè, ragazzi, un po' di sgarbi non fa mai male, naturalmente. naturalmente. Allora se la prende a un certo punto con un architetto, era alla convention, non so di che, sovranista, eccetera. Sovranista? Senti, sì, non lo so, è andato lì. Ma Sgarbi, quando lo inviti da qualche parte, sì, va. Cioè, se lo invita, sì, a Casa, certo, Pound, sì, va, sul parco, va. Certo, gli amici, se lo Casa invitano Pound, i comunisti di, sì, di Rizzo, sì, sì, va a dire. È un genio, ma genio. Va ovunque, certo, a predicare il verbo sgarbiano. Cioè, non gliene frega un cazzo della platea che c'è davanti. Nulla, niente. Lì era dai sovranisti, non so, Meloni, cioè, non mi ricordo nemmeno, non è importante. Non conta nulla dov'è, pur di predicare il verbo sgarbiano. Sentilo su questo architetto che pare che abbia fatto delle cose alla Spezia. Non lo voglio nemmeno sapere, non me ne frega un cazzo, però senti. La Spezia è la città di Piazza Verdi, una bellissima piazza dove c'erano 13 piante secolari estirpate per mettere degli archetti di cemento armato di tale Buren, artista comunista del cazzo, del buco del culo, chiattone, testa di cazzo, pezzo di merda, rotto in culo e vaffanculo, che ha distrutto questa mirabile piazza sotto l'occhio di Orlando. Io non so chi sia questo qua che avrebbe distrutto, perché, una piazza alla Spezia, ma si è meritato tutte queste contumelie, questa sequenza di insulti. Chiedigli un parere anche su Piazza Cadorna a Milano, vedrai, sul lago e filo di Piazza, senti, Cadorna Alfano, a Milano. Senti, su Alfano è meraviglioso, io quando parla di Alfano godo. Cioè, è come una masturbazione. Alfano? Cioè, Alfano? No, ma senti, cioè, Sgarbi su Alfano per me equivale a 3 masturbazioni. No, no, dai. Sì, sì, tre masturbazioni. È un ottimo ministro degli esteri, dai, ma che dite? Allora, questa è da ricordarsela, eh. La ritagliate, per favore. Parenzo, no, due, no, punti. Sì, Parenzo, due punti. Sì. Alfano, un ottimo ministro degli esteri. Mi pare sia agli esteri, no? Le ricordo, sì, male? No, chiedo. Sì, credo di sì. Non si nota, sì, però sì. No, chiedo. Sì. Perché è ottimo, perché non disturba, capisci? Appunto. Cioè, non è che entra in conflitto. No, è agli esteri, però. Poi c'è Alfano, uno che ha il governo da 10 anni. E da 10 e fa alternativa popolare. Alternativa a che, scusa? Sei lì da sempre. A che ti alterni? A che alternativa è? Ma devi prendere per il culo. C'è alternativa. Già si chiamava Nuovo Centrodestra e stava a sinistra, si chiama alternativa a se stesso. A quello non so, la merda al confronto è un gelato al caffè, non so. No, Alfano una merda. Stupendo, ragazzi. È meraviglioso tutto ciò, meraviglioso. Bah, sulle paleoliche, senti, sulle paleoliche. Hanno distrutto tutta la Puglia con le paleoliche, che sono metafore dei cazzi. La Puglia non è più visibile perché nel delirio omosessuale di Vendola, si chiamava Vendola, sono enormi cazzi che penetrano le colline e lui li sente come cosa sua. Una cosa pazzesca. Beh, però tu abbi il coraggio, una volta che lo invitiamo gli dici che tu ami le paleoliche, perché mi fai, sì, sempre litigare a me, sì, su questo. Hai ragione, devi chiamarlo e dici: io posso dirti una cosa, io amo le paleoliche, voglio un'Italia piena di paleoliche. No, questo non è vero, non me ne frega niente, sì, no, non è vero, tutte le però paleoliche. No, però non penso che siano una cosa, ecco, appunto, diglielo, no, vediamo, sì, come, lo dico, come ma ti risponde. Sì, però ogni volta parla di paleoliche non ce la faccio. Cioè, questo è il punto, che non ce la faccio più. Traffico veicolare. Minchia, ma quanto è bello che ha cominciato la zanzara. La zanzara come la figa, fa godere e crea dipendenza. Ciao! Sentiamo questo scontro televisivo. Secondo te dove è avvenuto questo scontro televisivo? Fammi capire un dove attimo. È avvenuto? Fammi ragionare. Il tema è l'integrazione e gli immigrati. Beh, prova già a qui indovinare. Si restringe già il campo in questo modo. Dando questo titolo si restringe già il campo. Potrebbe essere sicuramente. Guarda, scommetto 3.000 euro. Le alternative euro. Sono due. Sì, dimmi le alternative. Sentiamo. Uno sentiamo. È dalla vostra parte. L'altra qual è? L'altro qual è? O dalla vostra parte, o no, o certo, o quinta colonna del lunedì, dalla vostra parte il quotidiano. E siccome oggi è lunedì, non può essere quinta colonna, dunque. Sarà sicuramente dalla vostra parte. Mussolini contro Siddiq. Mussolini chi? Mussolini. Alessandra. Ah no, pensavo quell'altro, sai, tanto Siddiq qui. Siddiq Nur Alam. Ma Siddiq Nur Alam è praticamente fisso lì. In fondo il terrorismo, lei dice, lo alimentano gli stati occidentali, sta dicendo questo? Certo, certo, certo, certo, certo, certo. Abbiamo capito. Per quota della Siria, oggi per girare tutto il mondo verso la Sweden è fatto questo, un altro gioco. Quindi Trump bombarda la Siria perché hanno... morto 5 persone, direttore, questo è morto 5 persone. Questo ci fa capire come siamo rovinati. Lui ha detto che parlare di terrorismo è una polemica, cioè significa che non c'è il rispetto per la gente politica, che muore. È anche per una politica. Il terrorismo non c'entra con le altre cose. È una lei politica. Pensa che sia una, è una politica del terrorismo? Una politica anche. Ah, e allora lei è da arrestare, guardi, io se c'è qualcuno vede la certo, non c'è problema. Lei è da arrestare. Mussolini, avete distrutto l'Iraq. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Poveretto. Milano, Maurizio, vai. Maurizio da Milano. Vai. Pronto? Dimmi Maurizio, dimmi. Volevo dirvi che l'immagine di Berlusconi è veramente comica e che comunque anch'io ho fatto delle fotografie praticamente identiche, sì, la settimana scorsa. Mi trovavo, sì, in Sardegna, sì, a trovare dei parenti, sì, e così, siccome che abbiamo tutti quanti mangiare della carne semplicemente straordinaria, e la carne di capretto e di agnello è veramente straordinaria, assolutamente, soltanto se non ha toccato terra, vale a dire se il capretto ha mangiato soltanto latte materno, sì, quindi mercoledì e giovedì anch'io ho provveduto a nutrirli con dei biberon. E poi venerdì li abbiamo fatti fuori, perché comunque, beh, amico mio, ti voglio abbracciare, questa è l'Italia vera, questa è l'Italia del profondo, l'Italia, bravo, daranno anche loro tanto amore il giorno di Pasqua. Bellissima questa espressione, la trovo anche poetica rispetto a questa follia animalista di adesso, a questa barbarie animalista, altro che barbarie, cazzo, di questo Maurizio da Milano, di altri, i quali amano quell'animale, amano profondamente quell'agnello e lo nutrono amorevolmente, lo cullano apposta, per poi sgozzarlo, per poi farlo fuori anche lì con amore, con tenerezza, con dolcezza. Ma voi cosa pensate che faccia Berlusconi il giorno di Pasqua? Ma voi credete veramente che non si mangerà un bel cosciotto di capretto? Questo, amico mio, lo farà, calma, calma, per la Madonna. Attenzione. È un'espressione che si può sempre, si può usare, però magari no. Così, no, però, ma va bene, non era una bestemmia in senso classico. Sono sicuro che anche lui si farà un bel caprettino. Guarda, questo non lo so, non mi interessano i gusti alimentari di Berlusconi, non sono interessato a questa cosa. Mangiava sicuramente carne, pare che abbia diminuito, non lo so, però tu hai detto una cosa molto bella, è il, come dire, è l'Italia vera, Parenzo, profonda, delle persone che amano il territorio, certo, e che tu non fare tanto quello che si distanzia, anche tu mangi l'agnello. Ma non c'è ombra di dubbio. Ma non mi dissocio da lui, ma io è una delle cose che adoro di più, l'agnello. Allora, tra l'altro stasera inizia la grande festa ebraica della Pasqua, la Pasqua ebraica, di cui parleremo diffusamente, perché ha dei significati straordinari. Ecco, è importante anche questo. Sì, sì, va bene, ha dei significati straordinari. Però Maurizio ci ha detto una cosa, hanno nutrito amorevolmente anche con il latte, con il biberon, questi agnelli, questi capretti, per poi qualche giorno dopo che è successo? Li abbiamo fatti star bene e poi li abbiamo uccisi, basta, chiudo, stop. Ma li abbiamo uccisi non con cattiveria, non mica ne abbiamo fatti soffrire, ma vanno nutriti e allevati per soddisfare i nostri bisogni, le nostre voglie, ma e anche i nostri palati, i nostri palati, piaceri, dai, su, secondo me dentro, cioè nel loro, cioè adesso voglio dire una cosa un po' esagerata forse, Parenzo, come al solito, però mi è venuta così, dentro di sé lo sanno di essere destinati al palato dell'uomo, questi signori agnelli, no? Ce lo sanno anche, sono un po' quasi rassegnati a questa cosa qua, questo destino che è normale, fa parte del ciclo della vita, dai. Lucio da Napoli, vai, Lucio. Lucio. Io sono pronto? Sì, sì, dimmi, caro, dimmi. Io sono allibito di quello che sto sentendo dire da... Sì, però, amico mio, tu lo sai, io non mi devo incazzare, dai. Devi metterti, sì, devi parlare bene, mi devi fare ascoltare parola dopo parola quello dai, che dici. Dai due conduttori, quello che sto sentendo da parte dei due conduttori e dell'ultimo che è intervenuto. Che è successo? Che è successo? Giudicare penosa una fotografia di Berlusconi con degli agnellini e via di seguito, ma tu la puoi pensare per quello che vuoi, ma non puoi parlare di penoso. Di penoso siete voi che state rovinando questa trasmissione, state peggiorando di giorno in giorno. Sì, questo è vero. siete partiti giusto con quel bravo prete sì, siciliano che sì confessava una Asmodeo, Asmodeo, Asmodeo. Sì, vabbè, e continua a fare il buffone. Sai, lo conosce Asmodeo o no? Conosci, ho paura, non nominarlo. Cretino, lo conosce Asmodeo, lo conosce Asmodeo. Cretino, sei tu. Esci da questo corpo. E ancora di più il conduttore che ti segue in questa trasmissione. Ancora peggio. Chi sarebbe? Tu, sei tu. Ah, sono io. Comunista, sono io questo. Che praticamente ne approfitta in tutti i modi per sono sempre io questo. Di Berlusconi. Sono di sempre io. Aspetta, Lucio, che torniamo con te. Esatto. Fermo, sì, fermo. Grazie, tieniti bravo. Carico, tieniti carico. Per il tuo cervello, scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Costine di seta, lasagne di ceci, la dieta sana della Pasqua vegana. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio Spiedini di Gus, bracciole al tofu, con la maionese ma senza le uova. Presidente, siamo con te, che Silvio Bell. Polpette di fave, broccoli al forno, patè di fagioli e formaggio agli anacardi. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio Bell. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio Bell. Ti faccio ascoltare la supercazzola di un ministro, il ministro sì. Fedeli. Hai sentito prima che musichetta su Berlusca? Sì, sì, molto divertente. Ministro buono. Fedeli, la supercazzola sulla guerra e sulla pace. Ragazzi, che ministri che abbiamo, una roba pazzesca. Solo da noi queste cose, sentite. Siamo tutti contro la guerra, come ero contro il fatto che però ammazzassero i bambini con il gas, no? Come dire, quindi c'è un terreno che va, l'ho già dichiarato l'altro giorno, con diplomazia e con forza, soprattutto con diplomazia e con forza europea. La supercazzola! No, siamo contro la guerra, ma contro l'uccisione di bambini, bellissimo. Condivisibile, stupendo, no, ci vuole stupendo. La diplomazia europea, sì. Ci vuole un ruolo... Una frase direi fondamentale, che possiamo sì. dire risolutiva sì, di tutto. Ci vuole un ruolo come più incisivo dell'Europa. Come quella di Di Maio, come quella di Di Maio. Ora, Di Maio potrebbe diventare questo nostro... Di Maio. Il presidente del consiglio, come sapete, potrebbe essere il prossimo presidente Scusa? Del consiglio. Eh beh, è possibile, ragazzi. Ma tu se... sei della Casaleggio Associati? No, sto dicendo, potrebbe essere il nuovo presidente del consiglio. Faccio della del Casaleggio consiglio, Associati. Una previsione, ti faccio anche una previsione. Se si arriva col proporzionale, magari sì. con i 5 Stelle, primo partito, magari avrà l'incarico di formare il governo. Beh, non sì, lo sappiamo. Però si dovrebbe alleare con qualcuno, però. Signor Di Maio, certo, si dovrebbe alleare con qualcuno. Pronto. Signor Di Maio, invece di sganciare i missili, cioè queste buffonate, queste Sganciamo frasi dei computer. Ridicoli, no, dei soldi. Ma nemmeno a, non li sento nemmeno nel sai nel pacifismo quello proprio sì. di quart'ordine, cioè nemmeno i pacifisti proprio quelli più ingenui, quelli più anche spontanei, quelli proprio più terra terra dicono queste cose, invece di sganciare i missili che sono costati 60 milioni, a parte che cazzo ne sai quanto sono costati, sganciamo 60 milioni di dollari, Di Maio. I missili lanciati ieri dagli Stati Uniti ci costano circa 60 milioni di dollari, sono costati i missili sganciati ieri. Se avessero sganciato 60 milioni di dollari in banconote verso le popolazioni in difficoltà, non le avrebbero aiutate di più. Mamma mia, ragazzi, ecco. Mamma mia! Si può criticare questa frase dei 5 Stelle? Ma certo. Si può criticare questa. Giustamente, mentre io... un amico mi scrive, neppure Flavia Vento. Guarda, ma nemmeno Flavia Vento. Mi Flavia dice Vento, proprio importante bravo. Direttore di rete, bravo. Di cui non farò, bravo, non farò il nome. È un'osservazione. Questo importante amico uno... direttore di rete. Vabbè, adesso non c'è bisogno. Vabbè, sì, non c'è bisogno. Sì, esatto. Allora, sto dicendo semplicemente una cosa. Chiunque ti abbia scritto ha perfettamente ragione. Probabilmente la signora Flavia Vento ha più intuizioni, sì, dal punto di vista della politica internazionale rispetto al signor Di Maio. Come invece io, al contrario, non vogliamo essere necessariamente contro i 5 Stelle, cerchiamo di ragionare, no, con la nostra testa. Per carità. Io sono totalmente a favore del fatto che Grillo a Genova decida chi cazzo, al di là dei tribunali, chi cazzo vuole candidare. Non solo perché rompe questa roba ridicola del voto in rete. Finalmente abbiamo capito che il voto in rete non conta più niente. Oh, certo. Allora, non lo è che, dicessero, sì, ma non è che possono essere i giudici a decidere se uno è candidato dei 5 Stelle o no. Il signor Grillo può dire: senti, questa qua ha vinto in rete, sì, d'accordo, non mi piace, mi fa schifo, mi fa orrore, la mando a fare in culo. Decido io chi candidare dei 5 Stelle a Genova. Me ne frego del voto in rete, dei statuti, dei cazzo buboli, delle regole che abbiamo, sì, fatto. Decido io, giusto, il capo politico, chi candidare per i 5 Stelle a Genova. Chiaro? Però allora dicessi apertamente la seconda cosa è che tutto sto meccanismo di selezione della classe dirigente può valere e non valere. Può valere il metodo non valere. Russo. No, beh, allora, dipende, sì, se piace a Grillo, se piace al signor Casaleggio, eccetera. Capito, vale, però sul fatto che non debba essere il TAR, non debba essere non so quale giudice a decidere se un partito deve candidare quello o quell'altro, amico mio, è una follia. Se decido no, quella non mi piace, quella prende, non è che fa i ricorsi, lo trovo una follia, prende le sue cose, le sue carabattole e se ne torna a fare quello che faceva prima, chiaro? Allora, io voglio ricordare sempre, perché la questione non è finita, cosa ci ha detto quel signore Rom della masseria venerdì scorso, cosa ha detto soprattutto al proprietario legittimo di quella masseria. Sì, lì è un po' sfuggita, che la si è arrabbiato tantissimo, lì, dicendo che non voleva trattare, non voleva pagare nulla. Io ci ho provato a fare una trattativa. Sì, ma... tu hai fallita. Sono dei delinquenti, siete dei delinquenti, non tratto su nulla. Stiamo parlando di Luigi Marzo, questo 72enne, questo pensionato, proprietario di una masseria, eredità della sorella. E questo vuole fare il cazzo che vuole di questa masseria, forse la vuole vendere, forse la vuole distruggere, forse la vuole affittare, comunque è roba sua. Occupata dai Rom, uno dei Rom si è rivolto a lui in questo modo. Quanti Buonasera, siete? Signor Rom. Quanti siete? Ma siamo 4 famiglie e circa 20 bambini. Ciao, stiamo ciao. Chiudendo l'accordo, Luigi. Ma allora, che accordo? Per favore, Parenzo, guardi, non dica cazzate, perché queste sono cazzate. No, hanno detto sei mesi, li mandiamo via. Coglioni, sì. Subito fuori dai coglioni. Signor Luigi, per favore, se può avere un dialogo. Abbiamo un dialogo. Con questi signori non ci parlo, quindi... L'ultimo accordo che io voglio fare è un patto con il signor Luigi. Almeno 3 mesi di tempo è possibile che ci... 3 mesi si può fare, no, dai. Almeno 3 mesi devo dire che è razzista. Per quanto mi riguarda, come razzista, nemmeno che c'entra giorni, razzista? Nemmeno 36 ore, niente. Beh, no, ma arriviamo a un accordo, un mese. Andiamo a un accordo, chiudiamo a un mese, dai. Un mese lo si dà a chiunque per trovare un'altra casa. Io non faccio accordi con nessuno. Ma Parenzo, ma che cazzo... Ma no, aspetta, fermo, risposta finale. Signor Luigi, se tu rompi le palle quando vieni qua ti tiro un proiettile in testa. No, questo no, no. Ma cosa dice? Ion, ma come proiettile in testa? Ma che dice? Ma è pazzo, Ion. Il proiettile in testa di Ion a Luigi Marzo. No comment. Allora, eravamo col signor Lucio. Signor Lucio, vai. Lucio, che volevi ancora? Ancora incazzato? Ancora arrabbiato, Lucio? Incazzato, basito, non incazzato. Sì, però devi alzare la voce, amico mio. Se hai un po' di voce, se ancora ti resta della voce. Per come? Se ti resta del fiato per campare, alza il tono della voce. Alza il tono della voce. Non fare sempre. Vabbè, niente, ragazzi, però fatemi capire, Lucio, fermati con la macchina, metti la bocca bene, altrimenti non ti sento. Sei negativo. Sono negativo. Allora, che vuoi? Dimmi, che vuoi? Io niente, io sto dicendo che siete penosi voi. Siamo penosi, perché siamo penosi? La vostra trasmissione sta peggiorando. Va bene, d'accordo, sì, siamo poi, pessimi, stiamo peggiorando, primo, bene, ottimo. Prima o poi sarete cacciati da questa trasmissione. Bene, ottimo, con i soldi però. Sono sicuro, tu... i soldi, quello senza soldi a me non mi frega praticamente, quello che sì, darà. Sì, sì. Però cioè tu potrai andare, avrai un avvenire, perché il venditore di pentole, come te l'ha detto già qualche altro, lo potrai senza altro fare. Quello è buono, quello è buono, però. Ma perché, che cosa hai contro i venditori di pentole? Ma non ho capito. Che cosa hai contro i venditori di pentole? Razzista, cosa hai contro i venditori di pentole? Razzista, snob. Tu c'hai un avvenire come venditore di pentole. Sei razzista nei confronti dei venditori di pentole. È un ottimo mestiere, nobile mestiere, il venditore di pentole. Non farai la fame, mentre l'uomino di Padova, quello sì che avrà problemi. Farai la fame tu, capito? Parenzo, farai la fame. Ma questo ma qua, hai dato ragione. No, adesso parla di te. Prima davi ragione a questo miserabile. Sì, va chiuso, effettivamente. L'omino di Padova dice che avrai problemi finanziari. Tu avrai No, lui l'ha detto, Lucio da Napoli l'ha detto. Senti, Lucio, tu che lavoro fai? Vai via. Eh? Vai il via. Il floricoltore. Vabbè, sì, cioè vendi fiori, produci fiori, che fai? Produci fiori. Beh, questo è un bel lavoro. Produci fiori. Beh, è un bel mestiere questo qua, un bel mestiere. Sì. Un mestiere concreto, vero? Al limite mi potrò assumere nella mia azienda. Sì, col cazzo, però va bene, cioè non c'è problema. Non ci vengo nemmeno se sono costretto ci a stare. Almeno per sensibilizzare un po' la vostra vita, perché siete proprio il valore della vita, voi praticamente non zero. Siete proprio a percepire. No, va bene, Lucio, ti sei sfogato un po', hai detto la tua, tua moglie... tutti i tuoi parenti, i tuoi amici sono molto contenti. Felici, di questo tuo intervento in radio, adesso vai a casa e non ci rompere i coglioni. Federico dalla provincia di Milano, vai. Federico dalla provincia di Milano, ti ho fatto parlare, adesso vai a casa e non ci rompere ma vedi scusa, c'ho guardato di chiudere, ho capito. Federico dalla provincia di Milano, vai. Sì, ci sono, io chiamo per la diatriba animalisti Berlusconi e Agnelli. No, la solita diatriba non la vogliamo. Oggi è Berlusconi che dà il biberon con varie... Voi dovete andare a vedere su internet che cosa è uscito fuori su questo biberon di Berlusconi all'agnello. Ragazzi, c'è di tutto, straordinario. Sai che prima o poi io vorrei fare... L'unica cosa che mi piacerebbe fare in televisione, Davide, è vedere una cosa con tutti questi meme, i più sconci, farli vedere tutti in carrellata, bellissimo, dietro, un grande LED, no? Berlusconi... Berlusconi che dà un biberon all'agnello, giù tutti i commenti più incredibili. Televisione, la meta televisione, bello. Televisione, ce n'è uno, per esempio, bellissimo, che c'è Glory Hall. E c'è l'agnello Glory Hall, vi dicono. Glory Hall, fissato. Posso dire la mia? Federico, vai, dimmi. Ma cos'è? Sì, ecco, no, volevo solo dire, ormai è chiara la posizione di questa trasmissione sugli animali e animalisti. No, la mia posizione. La tua posizione, no, ma è legittima. Però ogni tanto, per variare, anche perché stasera avete parlato appunto di Berlusconi, chiedevo a Cruciani, ma perché non parli mai del fatto che Mediaset ti ha portato in tribunale? Perché tu hai firmato... Quale, di cosa stai parlando, Federico? Di cosa stai parlando? Non so di cosa stai parlando. Interessanti argomenti... Argomenti di grande interesse popolare. Senti, Federico, di cosa vuoi parlare? Renato dalla provincia... Ciao, ragazzo. Renato dalla provincia di Genova, dai. Non c'è Andrea da Lecce, dai. Sì, ciao Cruciani. Sì. Senti? Sì, dimmi. Sì, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Ciao. Senti, caro, io stavo chiamando per la questione di venerdì di Lecce. Sì, con la parentesi sul tema Berlusconi, eccetera. Appoggio la tua tesi e non... Sì. Secondo me un uomo a 80 anni con le gambe incrociate così, ma secondo me c'è anche qualche gioco di Photoshop. Allora, non ho capito, scusami. Cioè? Che non credo tanto in quella foto di Berlusconi con l'agnello a gambe incrociate, a 80 anni passati, quindi... Ma no, ma è tutto vero, dai, quella roba lì è tutta vera. Ma va, Renato, è tutta vera. Senti, stavo chiamando per quanto riguarda la faccenda della masseria occupata a Lecce. Sì. Sacrosanto diritto del proprietario di avere... Fermo lì. Asmodeo, vai via! Signora del Santo, sa che cos'è lo squinting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24. o via WhatsApp al 393 71 71 701. Sì, buonasera, volevo fare un commento pacato sulla masseria occupata dai Rom. Ma che cazzo di trattativa dovete fare? I carri armati dovete inviare lì, i carri armati, tutti arrestati dal primo all'ultimo, tutti gli adulti in galera e i bambini affidati ai servizi sociali, è chiaro? È chiaro? Crucia, a caccia in gola, una caccia a culi zingare, Crucia! Parenzo che tratta con i nomadi vuole fare come Staffan de Mistura. Tu Parenzo sei Staffan de sto cazzo. Naturalmente. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Lecce, Andrea, vai. Allora Giuseppe, ti dicevo, il paradosso di questa situazione è che un proprietario non può legittimamente entrare in possesso di un suo bene, sì, perché è occupato da questi Rom e le forze dell'ordine sono occupate ad altro. Mm. Faccio un piccolo esempio. Sì, però Andrea, non me la mettere su una cosa di giudiziaria, cosa, non me ne frega, sì, niente a me di queste robe qua, cioè non me la mettere sulle cose da leguleio, non me ne frega nulla del merito della questione, cioè c'è un legittimo proprietario, se non riesce a entrare là, devono fare in modo che questo avvenga, chiaro? Oh, cioè... Stavo arrivando qui. Stavo ho capito, qui. Ma non me la puoi spiegare dal punto di vista, no, perché allora il possesso, le cose, che ce ne frega, quello c'è, ma, mi manda Rai 3, dai. Allora, scusa. Ottima trasmissione, peraltro, per cui vai. Diverse forze dell'ordine che proteggono un'opera privata, un cantiere TAP, un assetto antisommossa, e non si trovano invece forze dell'ordine per sgomberare una casa. Ma sì, ma ci sarà un problema, certamente un inghippo burocratico, ma è proprio quella la questione, che c'è un inghippo burocratico su una cosa molto semplice da risolvere. Anche perché vi faccio presente anche un'altra, sì, cosa riguardo. Ma potremmo risolverla in altro modo, perché avevamo concordato un mese. Ma non alla c'è fine... concordare da concordare nulla, dai. Non hai ben presente chi sono questi personaggi. Se un delinquente a Lecce vuole acquistare, sì, un'arma, qualcosa, eccetera, va nel campo Rom alla periferia di Lecce. Quindi c'è poco da trattare, sostanzialmente. Va bene, Andrea, ciao. Antonello, Pesaro, vai. Antonello, pronto? Vai, dimmi. Pronto. Oh, ciao. Finalmente riesco a parlare con te. Vai, Antonello, allora, dimmi. Io sono un pastore sardo, sì? Sono dietro le pecore con le cuffiette e ascolto la vostra magnifica trasmissione. Sì, sarai sardo, ma sei di Pesaro, però. Cioè, certo, sono nato qua, sono figlio di sardi. Volevo dire, per quanto riguarda, sì, gli agnelli, tutta sta gran cacciara che c'è sempre sotto Pasqua, ma volete capire che gli agnelli, questi qui, dove faltano le polemiche, sono agnelli nostri, e se ci vietate a noi di ammazzare gli agnelli, ve li portano dall'Ungheria, dalla Bulgaria, e vi mangiate la merda. La volete capire o no? Sì, no, ma io sono d'accordo con te. Il problema è che questi pazzi vorrebbero che non nessuno fosse mangiato, capito? Nemmeno quelli portati dalla Romania, ma nemmeno quelli portati da non so dove. Cosa, noi non siamo degli assassini. Noi sappiamo come gestire. Dillo alla Brambilla, dillo a Berlusconi, dillo a questi, cioè dillo a Berlusconi, dillo alla Brambilla. No, io lo dico a te perché con loro non ci arrivo, intanto lo dico a te, ma sono dei dipendenti. No, ma valla a dire alla Brambilla, valla a dire a questi, cioè non lo dire a noi che siamo favorevoli al fatto che uno a Pasqua mangi tutto l'agnello possibile e immaginabile, dai. No, ma non è a Pasqua, l'agnello è una carne buona tutto l'anno. Sì, vabbè, ma adesso perché siamo a Pasqua, vai. Antonello, ti abbraccio, continua, forza. Renato, no, provincia di Genova, vai, Renato. Torniamo agli agnelli un attimino, è veramente, sì, scandaloso, scusami, hai detto delle cose bestiali. Sì. Il fatto stesso che una persona abbia il diritto, purtroppo per legge, di poter uccidere un animale e massacrarlo, sì, prima dargli il latte, coccolarlo, poi ucciderlo, sgozzarlo, è vergognoso, è semplicemente una questione etica. Abbiamo un mondo che permette questo, ma ricordiamoci che sino a pochi anni fa c'era una schiavitù, le donne erano maltrattate, c'è stata l'evoluzione, che non capiamo che i diritti sono uguali per tutti. Ma cosa c'entra le donne con gli agnelli? Ma gli agnelli come le mucche vanno allevate, certo. Gli vado da mangiare, no, poi dopo diventano bresaola, oppure diventano filetto, diventano bistecca, diventano macinato, diventano hamburger. La carne è totalmente inutile, hanno stabilito che è cancerogena, primo, il Ministero della Sanità, quindi non potete dire nulla su questo. Secondo punto, il fatto stesso che dipenderà come la cucini, no? Il fatto stesso, scusami, che per il palato, per un gusto, massacri un animale. Ma che diritto è questo? Che cervello hai, scusa? Come permetti di parlare di etica in questo momento? Renato, siamo calmi. Mi è venuta voglia di agnello qui in studio. No, agnello, un buon agnello in studio. Bresaola, un goccetto di olio d'oliva, sopra un po' di rughetta. Ma qual è il problema? No, Renato, qual è il problema? Non ho capito. Io penso che chi cucina l'agnello, chi lo alleva e chi poi lo mangia, come quel signore che ci ha chiamato all'inizio della missione, sia uno che ama gli animali molto più di quanto li ami te. No, ma un crimine cucinarlo male l'agnello? No, l'agnello, se cucinato male, non è vero. Non è vero, è un grande inganno. Sono dati in modo inumano questi animali qui. Ma basta con questa storia, basta in modo inumano, basta di paragonare, basta di paragonare. Sono stato, basta di paragonare, basta di paragonare gli allevamenti e campi di concentramento inumani. Vergognati, vergognati, vergognati. Questa è una carognata che fate, dite bestialità. Ma che è Barnard questo? È il neo vegano Barnard sembra. No, questo è realtà delle cose, è diverso. Per un gusto di gola, ma gusto, sì. Gusto di gol, ma massacriamo, il massacro è un'altra cosa, massacriamo, qui nessuno massacra nessuno, i massacri sono altri, i massacri sono quelli che sono stati fatti in altri paesi, i massacri sono quelli che non vengono in alcuni paesi, dove vengono... Certo. No, va, dai. Ma cosa venga? Vengono ammazzati gli animali, è diverso di ammazzare gli uomini, è diverso, te lo vuoi mettere in quella capoccia? Hai le pigne in te, non è vero, non è uguale, no! Insomma, la sofferenza trascende costantemente la natura. Che schifo, è ragazzi. Parallela, lo capisci questo? Sì, parallela, sì. Parallela che cosa? È trasversale, la sofferenza è trasversale a tutti gli esseri. Finché non capiamo questo, non ci sarà mai un modo di discutere, di ragionare. Senta, amico mio, fino a quando non sarà vietato, e speriamo non lo sia mai, mangiare la carne. Senti, amico rom, amico vegano. Amico vegano, magari fino vegetariano, a quando, o vegetariano, non lo so, fino a quando sarà viva Dio possibile mangiare la carne, noi continueremo a farlo, se ne faccia una ragione, ma non siamo degli assassini. Certo, tenga presente che fino a pochi anni fa gli schiavi, era normale avere uno schiavo in questa casa. Matta, ma lei è pazzo come questo è pazzo, gli schiavi. Cioè paragona la mucca che diventerà bresaola allo schiavo. Sì. Lo capite questo? È così, lo schiavo. Un attimino di consapevolezza. Lei lo conosce il signor Martin Luther King? Conosce lo schiavismo, conosce gli Stati Uniti, sta paragonando. Certo, quello che avviene adesso a quella situazione, vai a sotterrarti, ti devi andare a sotterrare, chiaro? No, per quello che no. Dici, devi andarti a sotterrare dalla vergogna, in senso metaforico. Non avete conto, non avete capito nulla di questo argomento qua. Dovete approfondire. Sì, approfondire. Certo. Noi approfondiamo sempre, ogni giorno. No, non l'ho fatto assolutamente, siete superficiali in questo caso qui. Ripeto, siamo superficiali. Un cane, non cambia nulla. Ciao amico mio, ciao. Allora, in questi giorni c'è il Vinitaly a Verona, Verona, come al solito. Grande appuntamento. Mi arriva una voce, esistono i bagarini anche al Vinitaly? Non è possibile. I bagarini. Secondo te da dove vengono questi bagarini? Da quale località geografica italiana? Da Bolzano. In realtà uno dei più grandi bagarini italiani, un mio amico, non è affatto napoletano, è di Massa Carrara. È un tuo amico, eh? Sì, amicissimo. Sono amico di uno dei più grandi bagarini italiani. La zanzara. No. Cruciani frequenta i criminali. Non so, ma quali criminali? Perché criminali? No, io criminale. Diamo il nome. No, ma perché? Diamo il nome alla procura. No, quale nome alla procura? Comunque, ex bagarino, tra l'altro. Ha fatto il bagarino da piani. Adesso diciamo ha cambiato mestiere. Comunque, cosa fate? Ragazzi, a Vinitaly vendono i biglietti bagarini napoletani. Senti, non è, cioè è curioso, cioè non mi sorprende, però pure i biglietti del Vinitaly riescono a vendere. Vinitaly costa 80 euro entrare al Vinitaly a Verona, 80 euro alla giornata. Beh, è una grande 80. Fiera internazionale, no, ma lo sto contestando. È una cosa... Mi sembra un po' troppo 80 euro, però comunque ognuno se vuole pagare entra, chi se ne frega. Senti cosa fanno i bagaran. Pronto? Gaetano? Yeah. Ciao, mi chiamo Francesco. Mi ha dato il numero un amico mio di oggi. Sì, dimmi. Senti, io vorrei entrare al Vinitaly, come faccio? Quando? Domani? Domani vengo, sì. A che ora vieni? Non lo so, verrei in mattinata. Ah, no, che mi chiami e ti faccio entrare, va bene? Sì, ho capito, ma quanto mi costa entrare? Ce l'ho detto, 40, va bene? 40? Ma come, costa 80 l'ingresso? Tu paghi 40, va bene? No, ma siamo in due, Gaetano, siamo in due. Allora fai 40 e 40, 80, risparmi 80 euro. Sì, ma se siamo in due non ci puoi fare un piccolo sconto? Ma già te l'ho fatto, già ce l'ho detto al tuo amico del numero, capito? Perché diciamo uno entra da due, capito? Ma come facciamo a entrare? Spiegami, c'è il biglietto materiale o ci fai entrare tu? Non ho capito bene. No, c'è il biglietto, non ti preoccupare. Ma scusa, ma sono ma quelli controllano però, c'è tutto un numero di codice sopra, c'è un codice. Allora, scusa, mi hai chiamato? Sì, devi no, entrare? Certo. E non ti preoccupare. No, per carità, ma io voglio sapere se poi non è che andiamo a finire nei guai, no? Ma guai andiamo a finire. No, che ne so, cioè ci sono due biglietti, questo voglio sapere, però non mi interessa come fai a entrare. Ma non ti preoccupare, ci stanno i biglietti, non ti preoccupare, domani mattina chiamami e non ti preoccupare. Cioè, ma non è tutto esaurito là? Vabbè, tu ce l'hai i biglietti. No, ci stanno i biglietti, però alla cassa costa 80. Appunto. Noi abbiamo i biglietti qui, siccome maggio, lo sai, no? Sì, sì. Ah, sì. Che non ti preoccupare, tu invece di 80 paghi 40, già ce l'ho detto il tuo amico. Ah, perfetto, vabbè, 40 va euro con i biglietti omaggio, ho capito, i biglietti omaggio. Ah. Meno male, no, ho capito, volevo capire, capito, che ne so, magari erano... Ma tu domani a... quando anche io rivedo, no? Mi chiami? 10:30, 11, una cosa del genere. A 10:30, 11, tu vieni con l'autobus? Sì. O con la macchina? No, siamo col treno. Col treno. Allora, ci vediamo alla stazione dell'auto. Perché lui è la mia fidanzata, siamo fidanzati. Va bene. Ciao, che okay. Ciao, allora ciao. Mi chiami, va quanti, bene? Ma ce n'hai, se dovessero venire altre due persone, tu c'hai non biglietti? Non ti preoccupare, ci stanno. Tutto regolare, tutto a posto. Tutto a posto, va bene. La tua chiamata. Ciao, Gaetano. Ciao. Comunque sono dei geni, ragazzi, riescono ad arrivare ovunque, anche i biglietti omaggio del Vinitaly, venduti italico, a 40 euro, mamma mia. Vittorio Sgarbi con noi, eccoci qui. Eccolo, bene. Bravi. Come andiamo? Vi trovo sempre più sbrigativi. No, che sbrigativi, di che? Sbrigativi in che senso? Il poverino che avete, che provava a difendere gli animali, che avete massacrato. Ma non è che difendere gli animali, ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su. Bisogna difendere l'agnello da Berlusconi. Adesso, Vittorio, tu lo mangi l'agnello a Pasqua? Sì. Io mangio qualunque cosa, ma in realtà ho pensato... Questa mattina mi ha chiamato, non so quale giornale o televisione, sulla questione di Berlusconi. Di Berlusconi della Brambilla, esatto, ma è una roba penosa, dai, penosa. La Brambilla è una catastrofe umana. Un po' in buona fede e un po' in mala fede, c'è la dimensione del vecchietto che cerca di tenere e commuovere i suoi coetanei, l'agnellino. Poi mi sono chiesto, se tu dai il latte all'agnello, l'agnello poi lo mangi per Pasqua? Io ho provato a ricordare le ultime cene con Berlusconi, non mi pare da vegetariano, neanche vegano, no, esatto. Però forse non mangia molta carne. Fatto sta che gli ha fatto l'articolo Romani per La Nazione, il Carlino, su questo tema. Oggi ero a pranzo dai francescani di Perugia. Non hai visto delle cose bellissime ieri a Perugia, l'oratorio dei nobili. Alla fine sono andato a vedere questa biblioteca meravigliosa che meritava il viaggio a San Francesco al Monte, sì. E mi hanno invitato a pranzo. C'è stato desidere, mi hanno messo a tavola, mi hanno portato maccheroni di tutti i tipi, pesto. A un certo punto arriva un secondo di carne e chiedo cos'è. È tacchino. Poi mi chiedo, dico, ma c'è il cantico delle creature? San Francesco mangiava carne e agnello? Dice, certo, il prefetto di San Francesco è mangia quello che ti portano a tavola. E quindi parlo di San Francesco. Abbiamo allora un Berlusconi che è più, come dire, avanti di San Francesco e anche di Gesù, che anche Gesù mangiava l'agnello. Allora, se abbiamo dei riferimenti così alti di persone che amavano gli animali, uno parlava con Gesù, certo, bravo. Che mangia l'agnello, perfino San Francesco, esatto. I francescani di Francesco. Ma scusa, ma ti pare possibile che Berlusconi, secondo te, la Brambilla gli ha sfracassati i coglioni per settimane su questo? Questo è certo. Però lui l'ha fatto un po' il 20% in buona fede. Ridere, però è più patetico di piccolo. Ma dai, no, su. Ha pensato dei vecchietti che forse... Ma i vecchietti, come, si mangiano l'agnello fino all'inverosimile, dai. Cioè, sono quelli snob, cioè non prende un voto, si rende nemico. Tutti quei voti di produttori, allevatori, che sono incazzati neri. Sono incazzati. Cioè, quelli che vendono la carne. Ma vuol dire che lui è diventato vegano? Non si capisce bene. No, ma no. Anche tu puoi dare del latte all'agnello, poi te lo mangi. Ma no, ha adottato questi agnelli perché quella Brambilla che è diventata vegana pensa che gli agnelli sono come gli esseri umani. Ma un agnello non è Sgarbi! Un agnello non è Sgarbi! Un agnello non è Parenzo! Un agnello non è Cruciani! Un agnello non è mia figlia! se lo potremo mangiare un panetto. Sì, perfetto, esatto, eh. esatto. No, è meraviglioso. Cioè, capito? Allora dicono che la, scusa, per esempio, Sgarbi, no, la vita di Sgarbi vale più di quella di un bambino? Eh? Beh, sai, il tema di fondo è che la vita prescinde dalla persona umana. No, questo lo sai perché te lo dico, perché qualcuno fa la campagna sui bambini delle bombe in Siria, no? Sì, io mi incazzo, io mi incazzo perché, perché fare questa campagna sui bambini? Cioè, la campagna va fatta teoricamente contro tutte... Perché? Beh, i bambini fanno più tenerezza, questo ma che vuol dire i bambini? Stoppa i bambini! Ma scusa, un anziano che muore... Ma perché un vecchio ha meno valore di un bambino? Ma non meno valore, però è un anziano... Uo, Sgarbi ha meno valore di un bambino? Ma no, ma figurati, Giorgio Gabriel diceva che i vecchi vanno ammazzati da bambini e potrebbe essere una soluzione anche questa, volendo... Però c'è un tema del diverso animale, no? C'è la... Ma la brambilla, che ne pensi della brambilla tu? Brambilla mi è sempre sembrata una catastrofe criminale, umana. Poveretta, così una ragazza che invece di darsi ai piaceri si è data questa specie di tormento. Il punto più alto fu quando impedì il marchio dell'UNESCO per il Palio di Siena, che lo merita mille volte, perché i cavalli si azzoppano. Allora, perché non vieti anche la Formula 1, visto che gli uomini muoiono? Cioè, se un cavallo si azzoppa e ti fa cancellare una... festa, storia e di memoria come il Palio di Siena, tu allora cancella, fai una bella campagna per dire mai più Formula 1 perché è morto questo o quell'altro grande pilota e quindi bravo. Un mondo la ma tu l'hai conosciuta la Brambilla? Sì, l'hai conosciuta. L'ho conosciuta purtroppo. Perché? In che senso? Scusa, non ho capito. Ma no, perché sai, la Brambilla, a parte come dire, la sua presunta avvenenza, perché ha presunta? Determinato, se la guardi bene, ha determinato un effetto strano nel povero Berlusconi quando eravamo proprio fratelli e amici, che gli ha talmente fracassato i coglioni che non voleva essere sottosegretaria ma ministra. Sì, altre, sì, me lo ricordo perfettamente. E allora, dopo aver fatto mille volte, sai che ho fatto? L'ho fatta ministra. Allora? Oh. Allora l'ho fatta ministro, Vittorio? Oh, vabbè. Però che non c'era, il turismo era stato abolito. E lei si è trovata a diventare ministro, non aveva più gli uffici, i capi di gabinetto, i dirigenti, non c'era più il ministero, era meraviglioso. Quando arriva quel poveraccio di Monti, non verifica nella sua standing review che non c'è il ministero del turismo, e nomina Gnudi, il quale è diventato ministro del ministero, che è stato un momento della politica italiana meraviglioso. Comunque la Bindi, si è ritirata, la Bindi si è ritirata dalla politica. Ah, quella era una notizia straordinaria, veramente, quella era la notizia più importante della giornata. Addirittura? Beh, capisci che hai goduto, meglio di, meglio di un orgasmo. Felice, felice, felice. È diventata più intelligente che bella adesso. Addirittura, cioè adesso con questa decisione, dici, no? Ha dimostrato che l'intelligenza in sé ha prevalso, una cosa sublime, veramente, no? Una, beh, capisci, intanto la vittoria di De Luca, mia, cioè, l'hai capito? Una che ti fa una violenza assoluta, usando la sua commissione in modo perfettamente mafioso, perché se tu stabilisci che uno è incandidabile dalla commissione antimafia, e gli dai l'attributo di mafioso, che si chiama antimafia. Beh, ha fatto la stessa cosa con Agnelli adesso, praticamente. Dice che la Juventus è infiltrata dalla mafia. Però la commissione antimafia... è un tema sul quale parlare. Tutte cose se la commissione antimafia non fa quello, che fa? Dovrebbe essere abolita la commissione antimafia. La mafia vera, per esempio, perché non si occupano di quelli che hanno preso 1.600.000.000 di euro per far fare l'eolico in Sicilia? Oddio, le paleoliche, lo sapevo. Lo sapevo, le paleoliche. No, no, se vuoi fare la lotta alla mafia, che lotta fai? Cos'è la mafia? Senti, ma ho sentito un discorso tuo sul meno uccello più cervello quando uno è vecchio, che è straordinario. Beh, purtroppo quella è una cosa. Meno uccello, ma te proprio meno uccello, nel senso nemmeno le pilloline blu. Ma tu, secondo me, ogni tanto Vittorio fa una specie di indigestione di Viagra. Sì, no, no. O no? Anzi, no, cerco di esercitarmi. L'unico modo per riuscire a reagire ai sintomi di impotenza è cambiare continuamente ragazza. Cioè, la varietà e il fatto che tu poi, insistendo sulla medesima, alla fine ti affezioni, configuri degli effetti che non sono più. E non ti tira più. Per tirarti devi avere il sentimento di prendere qualcosa che non ti tocca, cioè la moglie di un altro, la fidanzata di parenza. Cioè l'unico modo, dici, l'unico modo, questa... cioè l'unico modo per farselo tirare, tu dici ormai, è cambiare continuamente. È l'effetto rischio, che bisogna pensare che il marito potrebbe arrivare da un momento all'altro. Io credo che non tiri più l'uccello neanche parenza. Beh, è probabile, sì. Ah, dottore, ha preso Blondi Belli. No, non perché sia giovane o vecchio, ma perché quanti anni è che sta con quella bella ragazza? Che aspetta più a noi che a lui. Per lui non ci tocca più. Non aspetta più a te, non aspetta più a te, Davide, non aspetta più a te. Non aspetta più a te, ma lui espropriato, vai espropriato quella ragazza. Vai espropriato perché non ti spetta più. No, non gli spetta più, questa è la linea nuova. Ferma, aspetta, ragazzi, a lei che a noi. Ci fermiamo un attimo, però cerchiamo di chiamarlo meglio, come al solito, viva voce, auricolare, casini vari, perché non ne posso più, dai. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Se no interrompo la trasmissione, me ne vado! Sono arrecanati, ho trovato un altro protagonista della maggioranza silenziosa qui con me. Vai, Parenzo. Presente. Fai sentire la tua voce, è importante. È importante, fai sentire la tua voce. Dichiarati. No. Ciao Parenzo, ciao. Non mollare, Parenzo, non mollare. Quando si invecchia, meno uccello, più cervello. Grande massima di Vittorione Sgarbi in collegamento con noi, speriamo di aver migliorato. Eccolo, vi sentite? Eccoci, sì. Qui ti sentiamo finalmente bene. Eravamo arrivati al tema di espropriare Parenzo dei suoi beni. Bisogna, vabbè, questo io sono qui. Sì, no, però sì, per carità. Ma quanto consumo c'è di Viagra nel tuo corpo? Meglio dire meno uccello e più agnello in questo caso, mi pare, no? Tanto per citare. Scusa, Vittorio, quanto ne consumi di Viagra o Cialis? Io Viagra non lo uso più da tempo perché non funziona. Ma tu sei fissato? Come non funziona, con Cialis, scusa, questa roba del Viagra? Perché sei così fissato? E cosa funziona allora? Cambiare basta? È il cambiamento, sì, il cambiamento è l'unica soluzione. Il resto si determina appena entra un elemento affettivo. L'uccello ne patisce un danno grave, perché l'uccello deve in qualche modo irrompere. Sì. E irrompe quasi senza avere la legittimazione, quindi deve essere un atteggiamento deflagrante, capisci? Quindi bisogna che ci sia ancora il marito che è sulla porta, sì, e lo guarda con lo sguardo romantico e tu arrivi e la prendi. Questo è. Ma effettivamente ha una visione rivoluzionaria. Perché quando. Beh, sì, no, è adesso, vero, però. Senza, tu dici addirittura con violenza, da Vittorio? No, no, non con violenza, ma come dire, prendendo qualcosa che sai che non è tuo. Cioè, devi uscire dalla legittimità. Ogni cosa che viene in qualche modo stabilita come legittima è noiosa, diventa noiosa, cioè l'afflusso di, come dire, di sangue diminuisce in quel caso. Dobbiamo assolutamente mirare alla moglie di Parenzo. Vabbè, adesso, ma però, senti, ma tu come vorresti morire, Vito? C'è una cosa, io vorrei morire in un certo modo. No, mica perché è una cosa imminente. Hai mai pensato a come morire? No, è una delle cose che mi ripugna di più al mondo morire. Sì, penso che almeno uno non è riuscito a risorgere, credo che potrà essere il secondo. Cioè potresti essere il secondo a risorgere, dici? E sei risorto uno. Non è escluso. Sei talmente... Attenzione, però, sul tema... La Pasqua di risoluzione. Sì. Sul tema mi segnalano, è un articolo che ho su Dagospia, che in Indonesia il tradimento è considerato un atto normale e addirittura durante la festa di Pon, che si ripete 7 volte ogni anno, mogli e mariti possono avere rapporti sessuali in totale libertà con chiunque. Beh, ecco, ottimo. Questa è una notizia, mi sono permesso di interrompervi perché mi pare che domani l'apertura del Sole 24 Ore sarà, credo, verosimilmente su questo. Abbiamo aperto delle prospettive nuove. Ecco, vedi. Io assolutamente. Dovete andare in Indonesia, atto normale, cioè ogni forse non avete valutato una cosa che mi è sfuggita. Mi è venuta una segnalazione dicendovi che per una festa ebraica che sarà legata alla Pasqua, sì, bravo, oggi certo. L'hai letto? Io ho dato ragione a voi, ho detto: ma se un rituale presuppone una copertura di nudità, non è come Ruani quando viene in Italia che si copre una statua in un luogo pubblico che è un museo. Non si sente, uno spazio privato dove tu vai e vuoi i tuoi riti e copri il nudo. Gli ebrei hanno tutta la legittimità di farlo. Bravo, no, perfettamente ragione. Così oggi stasera inizia la Pasqua ebraica. Vabbè, ragazzi, infatti, chi se ne frega? Senti, una donna che non hai mai avuto e che ti vorresti fare, chi è? Una donna che non ho mai avuto, sai, tendo a pensare a quelle che non ho mai avuto. Cioè c'è una che sì, quello è vero, ma una che dici: cavolo, questa qua non ci sono riuscito, chi è? No, è un pensiero che non ho mai, ho pensato sempre che il sì e il no sono equivalenti perché sono sbrigativi, capisci subito che devi cambiare obiettivo. E una donna che sta con un altro dopo che è stata con me, penso che lo fa per penitenza. Cioè, voglio dire, la cosa è questa: se non ci stanno tu subito, tu non perdi tempo. Questo è il punto. No, assolutamente, lo sai, te l'ho già detto, la mia è quella. Non è che devi approfondire, tu dico, no, va bene, basta. La quantità di offerte è talmente. C'è il corteggiamento, sì, c'è una tale. Può anche essere. Ma va limitato nel tempo. Va limitato nel tempo e comunque deve essere prodromico al fatto che tu sei sicuro che poi lei ci sta. un corteggiamento nella incertezza è una forma di masturbazione, cioè un'operazione vabbè. Che non, senti, l'Aspesi ha detto che il vero amore è solo quello omosessuale. Bah. L'ho detto io? No, la signora Aspesi. Io ho detto che San Valentino solo deve essere solo per gli omosessuali. Può essere che... No, il vero amore è solo quello omosessuale. L'Aspesi ha il problema che non conosce la materia. Che non? Se ne occupa, non conosce la materia. Ah, non conosce la materia, sì, probabile, no, probabile. No, non lo so, non lo sappiamo questo. Ciao Vittorio, no, ciao. No. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Pierluigi Macerata, dai Pierluigi, vai, vai. Sì, ciao, niente, volevo dire solo a tutti questi coglioni che vi chiamano, che vi devono insegnare quello che dire, ma perché non se ne vanno a fanculo e cambiano stazione? Poi, per quanto diceva Sgarbi della ricetta di cambiare donne, oltre a quello un bel cannone diventi un bel martello pneumatico. Ma che c'entra il cannone? Ma che, ma stai tranquillo. Funziona bene. Ma non dire cazzata, ma stai tranquillo. Prova, ma che smetti, funziona bene. Provalo che funziona bene, sia per te che per lei. Sì, ciao belli, l'unica radio libera. Ciao. Ciao, ciao. Roberto da Verona. Vabbè, si tromba meglio con le canne. Ma chi te l'ha detto, Pierluigi? Ma non è vero. Cioè, magari uno è rincoglionito là. Roberto, sei più rilassato. Ah sì, dai, Roberto, vai. Pronto? Dimmi, dimmi Roberto. Ciao Zanzaroidi. Vai, vai, dimmi. Ascolta, io vorrei parlare di donne. Non è un argomento altro, nuovo qui. No, ma più che altro proprio per il discorso queste nostre donne. In che senso, scusa? Il problema è molto, ma molto grave. In che molto senso, grave. Scusami, spiegami. Allora, nel senso che tutta questa insoddisfazione, no? Che quale abbiamo, e ce l'abbiamo tutti. Ma ce l'ha lei l'insoddisfazione? Queste donne... Tu sei insoddisfatto? Insoddisfatto. Tu sei insoddisfatto? No, assolutamente no. Assolutamente no. Questo non sono capace neanche di far sesso. Poi invidiano quelle dell'est. Perché sono ma chi l'ha detto? Di ma, cosa parla ma chi l'ha detto che non sono capace di fare? Chi non è capace di ma fare sesso? Ma metti, allora io sono di Verona, nel nord c'è una mentalità, metti che nel sud sono un po' meglio. Ma chi lo capito? Dice? Ma cosa sono queste robe? Ma non è vero, ma non è vero. Ah sì? Ma non è vero, ma chi l'ha detto? Stai generalizzando. Un po' sì, però poi alla fine il discorso che se è tante puttane vuol dire che... Ma chi lo dice? Ma come fai? Di perché? Perché tu non sei un puttano, allora? Ma puttano no. No, se tu vai con tante non sei... Cosa sei? Cosa sei? Lo sono? Ma cercherebbe di essere uno libero che si gode la sessualità se ti fosse corrispettivo. Ma che c'entrano le puttane? Perché chiami le donne puttane? No, ho detto così dispregiativo. Vabbè, Fabrizio da Pavia, mi hai rotto i coglioni. Fabrizio da Pavia, dai. Poco buonasera, lucido, poco buonasera, lucido. Ciao. Dimmi. Volevo intervenire sul caso della masseria delle Recese. Allora, per che dire? C'è da dire in più? Da dire in più? Che c'è semplicemente ragione Parento. Cioè? Bravo. Oh, cerchiamo di spiegare. Perché io capisco quelli che intervengono per dire AK-47 e via discorrendo, ma prendine uno che va lì e lo fa sul serio, ma libera la masseria, ma ci rimette tutta l'esistenza. Allora, parliamo di cose serie. Cosa fai? Vai in tribunale, te la cavi in 4 anni? Oppure 3 mesi, Parenzo propone 6 mesi, un tre mese. Mesi. Eravamo arrivati a chiudere a un mese, ecco, un che mese, è un tempo che anche in genere i tribunali concedono per la verità in presenza dei bambini. Tra l'altro, sì, assolutamente. Ma è chiaro che un tribunale deve avere. Ragazzi, non dire stronzate, quelli devono andare via a calci nel culo. Punto basta, dai, anche ma non c'è nessuno sfratto. Quando si fa in da genere fare. Uno beh, quando uno occupa abusivamente c'è uno sfratto. Non come c'è tu alcuno sai. Sfratto da fare, non c'è alcuno sfratto da fare. Oppure c'è la soluzione armata. Ma non c'è la soluzione armata, c'è la soluzione che dovrebbe essere logica: che di fronte a un certificato di proprietà, bambini o non bambini, arrivano delle persone, carabinieri, che con questo foglio di carta in mano intimano armi alla mano, intimano a questi signori rom di uscire da quella masseria, non ma con la forza, in modo pacifico, ma non è semplicemente con un certificato di proprietà. Ma è uno sfratto tu, ma hai non c'è visto nessuno sfratto lì, non c'è nessun canone. No, d'accordo, chiamalo come ti pare, ha uno ma non c'è sfratto, quella è un'occupazione illegale. Ok, di chiamalo. Sgombero, chiamalo come ti pare a te. Ma che funziona così? In Italia funziona così, quelli in altri paesi ma già sarebbero stati cacciati. Giusto, dai. Ma non dico che sia giusto, è così, non dico che sia giusto. È così, dai, però. Claudio da Roma, Claudia, anzi, Claudia. Ciao, io avevo due domande, se voi potete farle alla non onorevole lo so. Brambilla. La prima è: Ma da dove viene quel latte che l'onorevole Berlusconi sta dando all'agnello? Il vero vegano non può dare a un altro essere, ecco, un altro, il latte, no, che non sia della sua mamma. Questo è vero. E secondo, vogliamo rieducare gli animali carnivori? Non lo so, a me mi pare che la natura ci ha fatto onnivori per tanti motivi, anche anatomici e fisici, però ubi maior minor cessa. Va bene, io comunque Renata, la mia Bari, lo mangio e brava, poco. Brava, ciao. Renata, non Bari, piace, vai. Ciao. Renata, vai. Sì, senta, vorrei sapere, perché quando arriva Pasqua tutti si preoccupano dell'agnellino? Beh, per forza. E durante l'anno nessuno si preoccupa quando mangiano i maialini? Perché tu sei preoccupata per i maialini? No, perché arriva Pasqua e tutti quanti cominciano perché a fare Pasqua si vendono l'agnellino. Perché mentre il maiale si vende tutto l'anno, ma non sei ci preoccupata sono dei per i maiali tu, Renata? No, non sono preoccupata per i maiali, ma è un modo di dire, perché arriva Pasqua e tutti quanti si preoccupano. Vabbè, però per adesso stai dicendo una banalità, c'è Pasqua, la gente mangia l'agnello, eccetera. Cioè, è il momento dell'anno in cui si consuma più agnello. Ma hai, questa hai una chiamato banalità, per dire una questa puttanata? Ovvio che è così. Certo. Hai chiamato per dire questa stronzata? No, perché tutti degli altri animali non si preoccupa nessuno. Ma veramente questi animalisti si preoccupano di tutti gli animali? Ma che vuol dire, Renata? Hai chiamato, ripeto, hai chiamato per dire questa puttanata? Sì. Grazie per aver sei chiamato. Colpevole, sei colpevole di una cosa tremenda, chiamare per dire delle puttanate, delle banalità colossali. Perché non si preoccupano degli altri animali? Ma non se ne preoccupano perché c'è la Pasqua e uno parla dell'agnello, le solite campagne ridicole sugli agnelli, adesso pure Berlusconi, infatti. Pure la Brambilla. Renata, ciao. Gennaro, Napoli. Vai. Gennaro. Sì, salve, salve, buonasera. Vai, dimmi. Io sono alla terza generazione, sono figlio di pellaio. E quindi in questo periodo la macellazione degli agnelli è tale per cui si ricava insomma anche la pelle, che è un elemento importante, e c'è tutta una filiera che è quella, insomma, non solo quella della lavorazione delle carni, ma anche quella della lavorazione delle pelli. Vabbè, allora? E in questo modo, però, con una pubblicità del genere, io non capisco Berlusconi in che modo, insomma, possa attrarre a sé gli imprenditori del settore. Ma questo, vabbè, quello sono cazzi suoi, a noi che ce ne frega. Sicuramente non sono contenti, soprattutto i produttori di carne, ce la sono incazzati neri, sono come delle bestie. Cioè, uno dei principali leader dell'imprenditoria italiana per tanti anni, eccetera, eccetera, beh, che sì, fa una campagna negativa sul consumo della carne. Tutti i produttori, no? Italiani, una filiera fortissima, adesso ho utilizzato questa parola, insomma, produttori storici, eccetera, si vedono un politico importante, eccetera, fare la campagna con la Brambilla e con l'agnello e col biberon. E dai, su, Marco D'Alecce. No, sta, è una cosa sta. Patetica, dai Marco, vai. Pronto, buonasera. Dimmi. Allora, solo questo, intanto voglio parlare della masseria, dare ragione a Parenzo, perché effettivamente non si può andare con armi in pugno. Ma c'è anche lì, ma la polizia, armi in pugno, prima anche loro fanno prima le trattative. Di passare alla masseria mi lasci passare una battutina piccola. Perché ci stiamo in questo periodo preoccupando giustamente dell'agnello e non delle maialone? Mamma ora. Mia, sei penoso. Allora, guarda, fa ridere proprio no, molto. No, siccome non fa ridere mi hai rotto i coglioni. Luca la pisa. No. Ma che vuol dire, Marco? Dai, ma che cazzata è? Ma fai una battuta intelligente, non le maialone. Ma che cazzo vuol dire? Ascolti. Ma cosa vuol dire? Allora, solo questo. Ci sta marciando anche il proprietario, ascolta. Ma perché ci sta marciando? Spiegami. Te lo dico immediatamente. Dimmi perché. Ha lasciato per lungo tempo quella masseria nella piena... è un disastro. Affari suoi, è nel suo diritto. Ora, è nel suo siamo diritto. D'accordo. Allora? Però adesso, giustamente, che stanno apportando delle migliorie... Queste persone, zingari o meno che siano, migliorie, diritto, ma chi gliel'ha chiesto? Ma se tu sei pazzo, non c'è bisogno, ma io posso anche venire a casa tua, a tua insaputa, e fare delle migliorie, tu delle me le migliorie. Fai lo ma chi l'ha detto? Ma tu, in quale mondo vivi? Tu vieni a casa mia, modifichi delle cose di casa mia che io posso tranquillamente mantenere nel disastro più assoluto perché è roba mia e posso fare quello che voglio. Tu vieni, fai delle migliorie e poi vuoi i soldi da me. Ma dico, ma siamo in un altro mondo? Siamo in un mondo normale o nel mondo di Marco D'Alecce? Forse stai sbagliando. Se non ci sta marciando sopra, sono due le vie: o la giudiziaria va e chiede un provvedimento anche d'urgenza di sgombero, oppure ragazzi, non sa perfettamente a chi rivolgersi. Basta. Però Marco, però andrebbe incontro ad una violenza privata. Ma non mi interessa, Marco, questi discorsi qua non mi... tu mi stai dicendo un'altra cosa? Marciando sopra si sta facendo ripitturare. Guarda, dimostri la tua coglionaggine della battuta di prima. Dire che questo qua. Allora, coglione tu, coglione. Dire, sì, anche bene, tu le fai, ecco, queste battute del cazzo. Sei anche un ignorante. Ma stai ignorante, lo dici a tua sorella? No, perché tu vai a dire che le forze dell'ordine possono entrare con il foglio di cazzo in mano per, certo, dire vai via. Certo, ma che, certo, cazzo dici se non c'è, certo, un provvedimento dovrebbero, giudiziario? Dovrebbero. Il problema è quello. Il problema è quello che non c'è un provvedimento. Il giorno dopo sarebbero messi sotto accusa. Marco, quei io sto dicendo che le cose dovrebbero andare in un certo modo, lo so Parenzo meglio. Ha ragione, una Marco, volta tanto ha Marco, ragione. Tu vorresti una trattativa. Ha sempre detto delle hai trozzate. Le pigne in testa, una vorresti volta tanto vorresti Parenzo, sì, vabbè. Ha detto una cosa vorresti giusta. La trattativa. Quelli no, sono entrati in un altro posto e non possono toccare nulla le migliorie. Quali migliorie? Ma chi lo decide? Sono delle migliorie. Ma chi te l'ha detto? Ci sei stato? Ci sei stato là dentro? Ci sei stato là dentro? Ci sei stato? Ci sei stato o no? Ci sei? Ma chi l'ha? Ci sei stato? Ci sei stato o no? Ci sei stato o no? Ci sei stato o no? Sì, sì, come no? E quando ci sei stato? Giorni fa. A che fare? A curiosare. E l'hai vista prima? Com'era prima e com'era dopo? Sì, oppure... è perché ci si passa davanti. Ci si passa davanti. Hanno fatto delle migliorie. Chi lo decide che hanno fatto delle migliorie? Tu o il proprietario? Chi ma lo decide? Guarda, chi lo decide? No, però ma il punto, io, scusate, chiunque, il punto un magistrato, vero, ma certo, un magistrato accoglierà la domanda per ottenere le migliorie da parte degli le migliorie no, degli zingari no, che hanno occupato illegalmente un posto, ma saremmo il paese però, di Ridolini. Quello, no, le migliorie non fermo vanno lì, a conto. Fermi, però fermi, c'è la pubblicità. Lasciati uno, Parenzo. E alla defecarsi io non ci penso. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Cruciani, sono appena uscito dall'ospedale perché sono specializzando di radiologia. Vabbè, oggi 31 in pediatria, no? Stavo facendo un'ecografia a un bambino, questo qua continuava a dimenarsi, piangeva. Poi a un certo punto ho avuto un'idea, mi sono messo a fischiettare. Suona la fisarmonica, fiamme in un campo rom. Oh, non ci crederai, ma si è zittito, siamo al top, al baby top direi. Fuori stilom di merda, fuori dai coglioni, liberatela sta masseria, fuori merde! Popolo di Lecce, radunatevi, popolo di Lecce, radunatevi tutti in quella masserizia, radunatevi, deve essere guerra, guerra, deve essere guerra! Caro David, con noi, ecco, Antonio Razzi, buonasera. Finalmente il futuro direttore di Limes, buonasera direttore. Buonasera sì. A te Davide, a te ti metto subito vice, caro sì. Davide. Presidente dell'ISPI, no? Razzi diventerà. Ma cos'è? Ma cosa dite? Come cosa l'ISPI? Dite? Non sai lo so. Cos'è non... l'ISPI? Ma non mi interessa. Sai cos'è l'ISPI? L'ISPI. Ispi, l'ex allenatore della Juventus e della Nazionale. No, quello... l'ISPI. Quello è Lippi. Mamma mia, ma cosa succede? È l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ma pare ISPI. Ma te lo dico da amico, ma ti puoi fare un po' i cazzi tuoi. Ma vabbè, che cazzo, scusa. Viene sempre che ti dici Lippi, te cose, ma... L'ISPI! Ma ragazzi, dai, senti, vabbè. Dimmi, io voglio capire, tu sei a favore di Trump, a favore di Assad? Sono a favore della giustizia. No, ho capito. Ma ora è un po'... Questo Trump, per esempio, vuole adesso, pare che voglia attaccare pure la Corea del Nord. Molto bene. Devo dire, caro amico Trump, fatelo un po' pure i cazzi tuoi, adesso mercoledì parto lì, sono lì, e che cazzo, mica mi vuole bombardare a me, dopo devo usare i controrazzi, va bene che sono razzi, i controrazzi, però dico, fate calmano un po', non è che... Già ha fatto... una cosa lì in Siria che non doveva fare, perché quello non è sicuro e non si sa niente. No, no, però questo è importante, cioè tu mi stai dicendo fondamentalmente che questo Trump ti sta deludendo. Da fare un po' i cazzi suoi, non è che può sempre attaccare. Per cui ti dai un consiglio d'amico. Che si faccia un po' i cazzi suoi e che riflette su tutte le altre cose. Tu dici. Siccome lui nella politica ha detto che voleva riallacciare il discorso con Kim Jong-un, che lo faccia. E invece senza bombe, dici, senza attacchi. Senza bombe, ma lì va a parlare con Kim Jong-un. Ma se testate nucleari ce l'hai la Corea del Nord, ce l'hanno. Ma sicuramente penso che ce l'ha per qualche bombetta ce l'ha. No, per difesa personale. Ah, dunque è giusto che ce l'abbia. Ma scusi Giuseppe, a casa tua tu devi difendere la tua famiglia come io difendo la mia famiglia. Ognuno c'ha il capo al cazzo che vuole, tu dici, a casa sua. Ma per esempio ci sono le prove che Assad abbia le armi chimiche, secondo te, oppure è tutta una montatura? Guarda, è tutta una buffonata, perché le armi chimiche nel 2014 l'ha consegnato tutto. Lui non ce l'ha. Ma che ne sa, Grazi? Noi gliel'abbiamo chiesto lì quando ho fatto. Che ha detto lui? No, ha detto ovvio. Noi assolutamente siamo per la pace. E tu ci credi che sia un uomo di pace il signor Assad? Dicono che ha ammazzato un sacco di gente, 200-300 persone. No. Ma non credo che lui l'abbia ammazzato lui. No, sono morti dal freddo come Gesù bambino. Bravo. Vedi come lo sa Davide. Morti dal freddo. Secondo te Assad è un uomo di pace? Guarda che a lui almeno teneva quattro religioni forti in Siria, dove lui lo teneva tutto sotto controllo. Nessuno aveva problemi. Nessuno ha avuto problemi. In Medio Oriente stava così bene. Ma quale con bene? Assad, ma non stava bene con Gheddafi. Si viveva cioè tu dici pace, Assad, Gheddafi e Saddam Hussein dovevano rimanere lì al loro posto, tutto stabile. Dovevano rimanere lì al loro posto e sicuramente non avevamo tutte queste migrazioni in Europa. E qui diciamo chi ha voluto la morte di queste persone ha scombussolato il mondo. Comunque anche con la Siria, secondo te Trump si deve fare anche lì i cazzi suoi, diciamo. Anche lì, perché non ci va a parlare? Non si deve parlare? Io ho parlato con i russi quando è successo questo. Sai che lingua ci ha parlato, comunque vabbè. Ci parlo in abruzzese. Con i russi? Perché tu, anche in inglese si parla abruzzese. Perché è come se l'ombrello se l'ha imparato dall'Abruzzo. Come si chiama in inglese l'ombrella? Umbrella. L'ombrella si chiama, è abruzzese, viva l'Abruzzo. Senti, a proposito, ma lo mangi l'agnello però, in genere tu lo mangi l'agnello? Perché no? L'arrosticino è fatto di agnello, lo mangi, è normale. Di agnello. E come la mettiamo con Berlusconi che ha fatto questa campagna sull'agnello? Ma io non l'ammazzo perché io non ho il coraggio di ammazzare un agnello. Però tu l'arrosticino te lo fai. Però me lo mangio, ci mancherebbe altro. È una specialità abruzzese, non è che possiamo buttare la spina al mare. Senti, ma se Berlusconi ti chiedesse di non mangiarle più perché Forza Italia ha sposato la causa animalista, che faresti tu, scusa? No, io me le mangio. Io continuo a mangiare l'agnello perché non posso buttare via una tradizione mia abruzzese. Disobbedisco a Berlusconi, continuo a mangiare l'agnello. Obbedisco a tutto quello che dice Berlusconi. Obbedisco a tutto tranne Non mangiare l'arrosticina, perché questa è una tradizione nostra abruzzese, l'arrosticina. Vabbè, ormai abbiamo mandato il giornale in macchina con quella dichiarazione. Senti, Antonio, ma non lo dirà una cosa così perché è partita la campagna, amico mio. Qui ci si deve adeguare. Senti, ma tu sai cos'è lo squirting? Lo squirting. Voi venite dalla luna, da dove venite? No, ma è una cosa importante, lo squirting. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma io voi venite sempre con delle parole. No, ma questo qua, ma che astronautica, è una cosa seria, sessuale, importante questa cosa qua. La donna che squirta, sai che cos'è la donna che squirta? No, io lo so, io mi sono trovato di queste cose, non mi intrigo. Quando la donna viene, ogni tanto viene in maniera piuttosto copiosa, si chiama squirting quello. Io guardo, non lo so. Mai provato? Perché... Mai provato? No, mai provato. E come, c'ha avuto un sacco di donne e non hai provato lo squirting? Ma lo so, ma che mi fate, mi metto a fare queste cose qui, io non sono uno scientifico, io vado al sodo. Tu lo sai, Parenzo, che quando si è sposato Antonio, sua moglie era vergine. Bravo. Era vergine. Questo lo potete aver iscritto, ma non sapeva nemmeno da come venivano i bambini. Cioè? Cioè, che significa non sapeva dove venivano i bambini? Non sapeva niente, non sapeva niente, l'ho dovuto insegnare. Per me sono stato un gran professore. Cioè, niente, era di un altro mondo, cioè proprio zero. Ma negli anni 60 non era solo lei, ce n'erano tante che non lo sapevano. Preferisci il pelo o il liscio? Io ho provato tutte e due a suo tempo. Sì, a suo tempo, sempre a suo tempo. E che preferivi? Sì, nessuno dei due? Sì, o tutti? Sinceramente te lo dico proprio da amico, guarda, preferivo più quando c'è Lupilo. Ah, però più Lupilo, più Lupilo. Più Lupilo. Sì, sì, sì, tutti i boschi. Tutti i boschi. Sono belli. Tutti i boschi sono belli. Io direi di concludere qua. Ciao, ciao amico, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao, ciao. Munnez, parlate di Pucchiac. Dai, mandiamogli l'audio a Cruciani. Dai. Dai. Oh. Vabbè, Cruciani, hai sentito? Qui abbiamo appena finito. E nel frattempo c'avevamo il cane che ci guardava. Ti faccio sentire anche le lenzuola, senti qua. Ciao Beppe. Gianluca da Padova, Gianluca da Padova, vai Gianluca, vai. Ehi, ciao, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi, allora, vai. Io avevo questa proposta perché sono un agricoltore di Padova, però della terra giù in Polesine, nella zona del Ferrarese. E vedo sempre questi cacciatori super armati, esperti, sì, cani, sì. Cose quella. E dico, abbiamo mobilitato 1000 poliziotti e purtroppo anche loro vivono per strada e sono in pattuglia. Abbiamo mobilitato, non ho capito, 1000 poliziotti per che cosa? Perché adesso ho sentito così al TG e alla radio che avevano mobilitato 1000 poliziotti per prendere questo Ivan in russo, sì, terribile, sì, là, sì. Sì, ma il problema lì è, adesso c'è la caccia all'uomo nei confronti di questo, esatto, di questo, esatto, killer, eccetera. Il problema vero, ragazzi, è che è stato scarcerato due volte con un foglio di via, con un decreto di espulsione che non è stato fatto rispettare. La vera vergogna è questa roba qui. Non è tanto il fatto che ancora non l'hanno preso, è possibile, questo magari è uno particolarmente abile, pare che sia serbo e non russo, ma il problema vero è che questo qua stava tranquillamente sul territorio italiano nonostante due espulsioni, credo, sicuramente un'espulsione. Cioè ormai quando ti cacciano via ti danno un foglietto e dici vabbè te ne puoi andare, ma di che cosa stiamo parlando, a parte rari casi? Cioè questo qua è rimasto da criminale sul territorio italiano senza che questa espulsione sia stata completata e messa in atto dalle forze dell'ordine, perché non ci sono nemmeno i mezzi per farlo, se ne fottono, questo è il punto. I decreti di espulsione sono spesso una buffonata che non servono assolutamente a nulla, dai. Dai, io queste polemiche qui purtroppo posso dirle finché voglio, ma tanto le cose vanno così e vabbè, penseranno. Va bene, Donato Varese, vai, Donato, grande ritorno di Donato, Donato, vai. Oh, ciao, ciao Giuseppe. David, allora, sei pronto? David? Sì, ho fatto caso che in queste ultime 48 ore non ci sia stata nessuna indignazione forte. Ma perché cosa? Perché ai nostri fratelli in Egitto. L'hanno fatto esplodere. Che è successo in Egitto? No, sì? Guarda, vedi, il fatto è che ci siano dei cristiani che pregano in una chiesa e poi arrivano i figli, sì, di Allah, sì, a farli saltare all'aria, no? Sì. C'è ancora qualche porco comunista maledetto, miserabile, che gli afferra qualche. E dicono ancora che questa non è una guerra di religione. Ma che cazzo deve ancora accadere? Ma cosa per dici? Che questi qua si rendono conto che questa è una guerra di religione. Prima cosa, l'Islam moderata, che non mi vengono a ammazzare dove mi trovo questo Islam. L'Islam moderato non esiste. Ha detto anche Erdogan, ha detto l'Islam moderato non esiste, esiste l'Islam e basta. Allora, tu non mi credi? Io vorrei parlare di fica. Ma credo che non senso, sia, scusa, non ti intendi neanche di quello, ma non ti intendi neppure di quello, guarda, tante bellissime cose. Solo di malattie mentali ti intendi tu, a sgarbi, sì. Oh, ascolta, mi stai dicendo, io vorrei mandare tu uno, solo uno, di uno, malattie, allora, mentali, Gardi, allora, Vittorio, l'unico ambito nel quale c'è, Stai zitto. Credimi, allora, credimi, credimi, non è una giornata lui, per te, credimi, è un cantore, credimi. È un cantore dell'arte, è un cantore di Donatello, di Michelangelo, tutti questi grandi scultori. Sgarbi lo sa, allora, Sgarbi lo sa che fra 20 anni, quando lui probabilmente non ci sarà, tutte queste opere d'arte verranno tutte scardinate. Ma da chi? Sgarbi lo sa. Ma cosa dice? Sgarbi queste cose le sa. Ma da chi scardinate? Vuole combattere. Vuoi prendere cose, la medicina della sera? Vuoi prendere dobbiamo, la medicina allora, delle 20? Dobbiamo fermare ma dai, l'Islam. No, allora, ti sei dimenticato di prendere la solita pillola, quella che prendi alle 20. Tu ne hai una alla mattina alle 7. Una alle 13. Ma di quelli proprio schifosi. Allora, e alle 20 noi, ne allora, hai dimenticato noi, di prendere allora, la pillola. Dobbiamo fermare ma noi chi? L'Islam. L'Islam ma in cosa Italia vuoi fermare? Non ma deve esistere, fermiamo il tuo altrimenti tutte le nostre opere d'arte se ne vanno a fare in culo. Le opere d'arte? A fare in culo. Le chiese nel mondo vengono distrutte perché ci sono le immagini. Allora, l'ISIS arriverà qui in Italia grazie ai Parenzo, sì, grazie, però a questi, grazie a quel porco di Prodi. Ma perché Prodi è il nemico numero uno? Prodi sono uno dei più grandi presidenti del Consiglio italiano. Poi quando, per quanto riguarda tutti questi banditi che vengono nelle nostre Papa, figlia, cosa? Il Papa, ecco, ecco che lo carichi. Cosa? Il Papa, cosa? Basta! Il Papa, ma non è possibile. Ma, se, ma questo è un idiota. Ma non è possibile. Tu sei un malato di mente. Devi essere chiudere la bocca a te quando parli così. Ditemi, ti si deve chiudere, ti si deve bloccare la bocca. Devono congelare le corde vocali a te per quello che hai detto. Schifoso. Tu sei uno schifoso. Sei il cuore. Questa è matematica certa. Tu sei uno schifoso. Ma non ho capito. Schifoso sei. Ma non hai detto delle cose vergognose. Non ho capito perché. No, diglielo, ha detto delle cose schifose. Da dove sono venuti? Io voglio l'Italia degli anni 60. Degli anni 60. Non ho capito una cosa. Per quale motivo Hai detto delle cose schifose. Bidone umano, ma sacco vuoto, demente, imbrostito. Che cazzo lo chiamaste ancora tu? Io non ho capito una cosa, Donato. Non serve un cazzo. Ma la perché? Mia merda ti nobilita, merda. Ma io non ho capito una cosa, per quale motivo al mondo tu saresti il rappresentante di Cristo in terra? Me lo devi spiegare. Perché è un malato di mente. Io sono più buono del Papa. Ma no, adesso non basta queste stupidaggini, dai. Ma non lo vuole, non ama ma Cristo. Basta, ma dire stupidaggini, no, basta bestemmiare, no. Stupido, dai, su. Basta. Tu ma che cazzo l'ha nominato qua? Allora, stupido. Il Papa è soltanto un vecchietto. Stupido sei, ma non puoi tollerare, non è la mia religione, ma non si può allora, dire sta roba. No, sta dicendo che lui era il vero rappresentante di Cristo. Lui è il vero rappresentante dei malati di mente, questo è lui. Perché Ratzinger all'Islam non glielo mandò a dire, gli disse: caro Islam, voi disse, che avete ammazzato deliberatamente un milione e mezzo di armeni, come la mettiamo? Ma noi saremo gli armeni fra 20 anni! Saremo gli armeni miserabile. Ma non ti preoccupare, che tu non ti preoccupare, che per fortuna tu, il Signore ti prenderà tra le sue braccia presto, non ti preoccupare. Che cazzo stai facendo per l'Italia? Andiamo a fare che cosa? Mamma mia, ma io ancora io voglio capire una cosa, per esempio le moschee, come le vedi le moschee in Italia? Come le vedi le moschee? Non devono esistere. E allora l'Europa rimanda l'Islam. L'Europa comanda l'Islam. Ma tu sei matto? L'Islam non c'entra niente con il cristianesimo. Sei più grave, il cristianesimo è il vero Dio, è il vero Dio, il cristianesimo non c'entra un cazzo con quella stessa roba lì. Bisogna trascinarli fuori. Ma tu lo conosci il Signore? Hanno cercato di prendersi l'Austria qualche secolo fa. Sì, sì. Hanno cercato con la guerra di Lepanto. dopo 1500 anni ci stanno riuscendo con il loro ventre pieno. Hai visto cosa ha detto Erdogan? Ha Ma lo conosci, tu lo conosci, scusa. Erdogan ha detto altre parole. Oh, se mi rompete il cazzo, eh? Così ha detto. Non avete un posto sicuro per mettervi al riparo. Ma tu lo conosci il signor Siddiq? Lo conosci il signor Siddiq Nur Allam? Una bravissima persona. Quello del Bangladesh che va nelle trasmissioni, lo conosci? Signor Siddiq Nur Allam. Passamelo cosa, passamelo. Perché lo vuoi? Senti qualche voce. Questi no, mamma mia. Però appena squilla il telefono, Donato, devi dire questo qua, tu sei il nostro carnefice. Gli devi dire così, sei il nostro carnefice. Io amico paura. Io allora io in nome sei della il verità, nostro carnefice. Ma quello è un signore del Bangladesh normale. Ma no, sai tranquillissimo. Cosa c'è? Quella di mandaccia di aspetta di lì, aspetta lì. Luca, provincia di Pisa, intanto Donato, fermo lì, Luca. Buonasera. Dimmi. Senta, io volevo parlare della masseria, lo so che ne ha parlato un sacco di gente, però questi rom dicono che hanno fatto delle migliorie. Allora, che quantificassero quante sono queste migliorie. Non c'è da quantificare nulla, nessuno gliel'ha chiesto di fare queste migliorie, signori rom. Ok, se no no, va bene, quello che sia. Però, se il padrone gli fa un contratto di locazione, le autorità competenti, ma non glielo vuole fare, ma perché glielo deve fare a quelli che hanno occupato la casa? Non lo vuole, non lo vuole fare a loro, sarà suo diritto non affittare la casa a quelli là, sì o no? Ah sì, se vuole lo può anche fare. Ma però, perché? Ma noi glielo devi dire tu, non lo vuole fare, li vuole denunciare, li vuole mandare a fare in culo, vuole liberare la casa sua per farci nulla, per distruggerla. Sarà padrone o no? Sì, sì, ha voglia, può fare quello che vuole. E allora? Quello che volevo proporre era un'alternativa, poi ognuno fa quello ma che sei vuole. Parenzo? Che sei Staffan de Mistura? Che sei mediatore culturale? Che sei? I diritti di proprietà dove vanno? Aspetta un attimo, fermo. No, diritti di aspetta, proprietà. Aspetta. Donato, fermo un attimo, c'è Siddiq. Sì, sì. Signor Siddiq Nur Allam. Cazzo sta a fare si dicono la lama a quest'ora? Beh, starà lavorando. Ma non fa un cazzo, non fa nulla, dai, su, sta lì a parlare in televisione spesso. Siddiq Nur Allam, mi piace pronunciare Siddiq. Ma perché? Ma perché Donato, ti piace giro? Come nome Siddiq Nur Allam? Ti piace come nome? Lo rispetto, ma mi fa schifo come nome. Ma perché ti fa schifo come nome? Donato da Varese, che era bello. Per me questi nomi arabi, mi dispiace. Ma fai schifo mi tu. Mi fanno schifo i nomi, perché ma fai io sono schifo nato. Tu, Donato. Io sono nato con Pasquale, con Carmela, sì, con Maria, Pasquale. Con Giacomo. Ma che c'è? Quello si chiama Siddiq. Invece abituati. Non mi interessa un cazzo. Squacquerone, questa gente deve rimanere il cervello che è uno squacquerone rucola. Squacquerone in quelle terre che si sono rubati con i maceti. Perché l'Islam non erano 1.700.000. Hanno ucciso, hanno... Guarda l'Egitto. Abituati che il mondo sarà pieno di cinciunciani. Sarà pieno di Ahmed, di Abdallah Gabbard. Mamma mia, che persona schifosa. Basta, vergognati, cane. Cane maledetto, vergognati. Cane non è male come suo. Vergognati. Di sei? È un servitore di Satana, Parenzo, ricordati. Sono un servitore di... È un servitore di Satana. Ma no, Satana, che c'entra Satana adesso, dai. Certo, perché Satana esiste. Perché se non esistesse, non avremmo un mondo pieno di guerre. Ma no, che Satana, adesso Satana non c'entra. Che Satana, aspetta. Vabbè, se esisto io, come cazzo fa a non esistere Satana? Questo perché tu sei Cristo, mente. Tu sei Cristo, non ho capito. Questo è un malato di no, mente. No, esisto malato io come terrestre, ci sarà anche Satana. Ma no? Perché ma perché ti consideri l'erede, di cioè il rappresentante di Cristo in terra? Questo non capisco. No, ma perché è matto? Perché io non abbraccio, disturbato. Io non aprirei le braccia all'Islam. Perché è disturbato, cioè, tu è una persona disturbata. Tu faresti meglio del Papa, faresti meglio del Papa. Quel farabutto deve vedere basta. Con me quel farabutto. Ma con te no, non ti conosco. Ma sei tu un farabutto. Ma ma io mi auguro veramente che qualcuno... Quelli hanno un altro Dio. Ma io mi auguro che qualcuno prenda un provvedimento contro questo qui, perché sta dicendo delle cose troppo gravi. Sta dicendo delle cose troppo gravi sul Papa, sta offendendo milioni di fedeli. Milioni di fedeli sta offendendo. Vabbè, Donato, ciao. Sto offendendo... Cioè, tu che milioni di fedeli che li vorresti morti, tu che li vuoi idiota, morti, milioni di fedeli sta tu vuoi morti gli italiani, io spero tu che ti portino via, casa, maledetto figlio di puttana, io spero che ti portino via, spero che tu ti portino via, chiesta che muore di fame italiana, gli fai un cazzo nella figa, no, ma vale, che c'entra adesso questo, urli, c'è. Perché sei satana, perché sei uno schifoso, sei un turlupinatore, sei un imbroglione, sei un mentecatto, sei un invalido mentale, non vale niente. Satana, sai che sta facendo? Sta contribuendo a far sì che tu rimanga con la permissione, perché devi promuovere Satana, il male, devi promuovere l'inferno, perché tu Asmodeo! Non possono avere la voce che ha qua, che Asmodeo! È Asmodeo! Asmodeo! Vai via! Per favore, non insultare. Ciao Parenzo, volevo farti una domanda. Sono un operaio di 49 anni e da 2 anni sono fidanzato con una ragazza di 21 anni. Volevo sapere come mi considera Parenzo. Un degenerato, che ne so, come mi considera? Perché io non ho soldi essendo un operaio. Non ho niente, capito? Però la rendo felice anche sotto quell'ambito, capito Parenzo? Ah, dottore non parla di queste cose, il dottore non parla. Ah, non parla il dottore, eh? Ortacci. David, metti il caso che nella paciosa Prati ti dovessi imbattere nel signor Igor il Russo. Che fai, gli offri il caffè? A domani ragazzi, viva la zanzara, viva la libertà, ciao! Salvare la vita agli agnelli e ai capretti, in particolare in questi giorni di Pasqua. Ma allora vogliamo fare una cattiva Pasqua. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24, libera la voglia di fare. Naturalmente.